frase, naturalmente la metafora riguarda me, ma la dico perché a me mi angoscia il sistema. Questo è un sistema che produce pochissima informazione, ha cancellato completamente il resto del mondo, non vediamo mai un'immagine di un paese estero se non c'è un fatto di cronaca, non abbiamo delle corrispondenze continuative dai posti importanti dove si fa la storia del pianeta. Siamo davanti al nero della televisione e naturalmente è fatto di storie non raccontate, di porzioni di territorio cancellate, di notizie che non si hanno. Questo corrisponde sicuramente un analfabetismo di ritorno nel paese. Era la seconda edizione di Italia in Controluce su radio24.it. Potete ascoltare dunque tutte le puntate. Per comunicare con noi a Radio 24 Italia in Controluce su Facebook, in Controluce su Twitter, la mail controluce@radio24.it. Ringrazio Peter Bescapè per l'editing e il montaggio di questo programma. La mia voce torna domani alle 6.30 naturalmente su Radio 24.